1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:19 minuti, la 96esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province volge al termine. E niente di fatto, niente di fatto. Oggi qua ho la copertina dell'Espresso, dov'è che è? Porca miseria, la copertina dell'Espresso è sulle province, abolite solo sulla carta. No! Ma dai, ma come? Allora non abbiamo tutti i torti a continuare a contare. Vabbè, comunque la 97esima è alle porte di settimana decisiva e confidiamo come sempre, cari ascoltatori. Oggi avremo ospiti intanto Flavio Tosi alle 8:15, allora esce o no dalla Lega? E poi parleremo di Sicilia, Sicilia che è la politica in Sicilia, è la più costosa d'Europa, dice la Corte dei Conti. Avremo ospite l'assessore al bilancio della Regione Sicilia e avremo ospite il sindaco di Messina, Accorinti, colui che va in giro in magliette arcobaleno, cacciato dall'Assemblea regionale siciliana perché non aveva la cravatta. I giornali. In questo venerdì 6 marzo la maggior parte dei titoli sono sul quantitative easing di Draghi, il Sole 24 Ore, BCE, lunedì è il QE Day, mentre il Corriere della Sera, BCE ottimista sulla ripresa, il Messaggero, BCE da lunedì 60 miliardi al mese, Repubblica, Draghi via il piano, la ripresa c'è. La Stampa, ripresa, parte il piano di Draghi da lunedì 60 miliardi al mese. Anche Avvenire, piano Draghi al via. Poi c'è la sinistra che tifa per l'ISIS, l'apertura del giornale addirittura l'ISIS, illegali le benedizioni di Pasqua. Vabbè, questo andrà su Mani sul Volante, ma addirittura l'apertura. Libero, IPM nel letto di Berlusconi. E anche il fatto, Papi e le sue bambine, portami la giornalista, sono tornate, le abbiamo fatte sentire le intercettazioni di Berlusconi. Prima però voglio partire da cosa? Torna a parlare il benzinaio Graziano Stacchio, colui che ha indagato, anche se per molti è un eroe, è un simbolo, perché ha sventato una rapina, ha ucciso un rapinatore in provincia di Vicenza. Perché torna a parlare, lo fa con Repubblica? Perché la notizia è che a Oderzo alcuni hanno sparato dicendo facciamo come Stacchio. Eccolo qui allora intervistato da Paolo Berizzi. Stacchio, secondo lei ho i tratti del cowboy veneto? Si presenta così a Paolo Berizzi e poi a pagina 23 di Repubblica racconta: l'effetto mediatico mi ha stordito e lo voglio dire subito, non sono un eroe, non sono un modello da imitare, lo dico alla gente che non deve sparare il mio nome né in Veneto né in Sicilia, solo l'idea mi fa paura, non è che adesso ognuno si deve sentire autorizzato a sparare, che facciamo, il Far West? Ecco, sono contento che debba dirlo lui, il diretto protagonista, a tutti questi deficienti che imbracciano il fucile. Questo è un commento mio. Comunque, a Oderzo, il problema è che la gente ha paura, dice Stacchio, sta perdendo la testa, ci vuole un attimo, il mio è stato un atto di istinto, di disperazione, vorrei dire anche di umanità, perché quella ragazza dentro la gioielleria era sotto scacco da 5 banditi armati di mitra. E io dico una cosa, se i complici di questo bandito l'avessero lasciato lì, ferito, io gli avrei messo un laccio emostatico e avrei provato a salvarlo. Ambulanza e via. Lo avrebbe fatto davvero, ma certo, lo giuro sui miei figli e miei nipoti, la vita vale più di tutto. Sa quanti lacci emostatici ho messo qui davanti e indica lo stradone, dove ci sono stati tanti incidenti stradali, uno aveva il femore fuori, io sono intervenuto. Ho ricevuto certo molta solidarietà anche da immigrati, africani, albanesi, gente per bene che abita qui, è venuta a darmi una pacca sulla spalla, mentre dal punto di vista penale forse non temo, non lo so quello che mi può succedere, mi sento a posto in coscienza. La cosa che però più mi dispiace è che sia morta una persona, se i complici me lo avessero permesso avrei provato a salvarlo, ma non hanno avuto rispetto nemmeno per la sua vita. Così Graziano Stacchio torna a parlare su Repubblica a pagina 23. Mentre saltiamo a Roma, la Camera, dove ieri, come abbiamo detto, c'è stato un convegno. La Presidente, adesso va chiamata. Così dice Laura Boldrini. Ha fatto questo convegno a due giorni dall'8 marzo, peraltro, in cui ha parlato dell'importanza di genere, di dire assessora, ministra, presidenta o la presidente almeno, sindaca. Io veramente ho pochi commenti da fare su questo, perché è chiaro, se no li sento già quelli, certo tu sei maschio, no, io dico mi va bene, facciamo un patto però, io da domani voglio essere chiamato giornalista, va bene, giornalista. Così come un tassista uomo, un elettricista uomo, ok? Boldrini vuole il vocabolario al femminile, il titolo di pagina 17 di Repubblica, Alessandra Longo, la lettera ai deputati, se è donna si dice ministra, sindaca, assessora, deve cambiare il linguaggio. Devo dire che su Twitter, vabbè, il popolo di Twitter è un popolo di criticoni, non sanno far altro dal mattino alla sera, l'80% di chi è su Twitter è gente che perde tempo, non sa che fare e quindi perde il tempo a criticare, ma su Twitter è stata una valanga di, devo dire, anche insulti, e questo è sempre un male, è sempre sbagliato. Il web copre di insulti la maestrina Boldrini. Pagina 11 di Libero, Paolo Emilio Russo. Il Messaggero dedica una pagina a questo, l'impegno della Boldrini. Una donna è ministra, non ministro. Polemica sul codice linguistico. Cioè, è una tematica soprattutto di quelle che sicuramente alimenta le vostre colazioni, proprio quelle tematiche che prendono molte pagine di giornali e che vi vedo accapigliarvi a colazione. Chiamami giornalista, chiamami avvocata, chiamami idraulica, no, quello è giusto, vabbè, però insomma ci siamo capiti. Caro elettricista, vai pure ora a lavorare. A proposito di lavorare, invece, ascoltavo ieri molto interessante la trasmissione di Oscar Giannino, ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, l'altro ieri credo, su questo prof che è stato licenziato, primo caso in Italia, un professore licenziato perché non sapeva insegnare. Il prof non sa insegnare, licenziato per demerito, non era un precario, era un professore di ruolo. È il primo caso a Montebelluna, ne racconta il Messaggero a pagina 14, ne fa una pagina, giustamente, perde il posto per incapacità didattica. È un caso quasi inedito nella scuola, gli stessi giornalisti cercano di capire se ci sono precedenti, si va a scovare qualche precedente, forse nel 1987 un insegnante, una donna che fu appunto cacciata per lo stesso motivo. Comunque, licenziato per non aver saputo svolgere al meglio il proprio lavoro, finisce sulla porta un professore dell'Istituto Superiore Einaudi Scarpa a Montebelluna, in provincia di Treviso. Scoppia un caso nazionale, ne parla e ne scrive Camilla Mozzetti a pagina 14 del Messaggero. Non si tratta di un docente precario, di un supplente, ma di un insegnante con cattedra, a cui la scuola ha contestato la capacità didattica. Insomma, dava bei voti a compiti dove era pieno di strafalcioni e dava brutti voti correggendo degli errori laddove non erano errori, e insomma si è dimostrato, dopo 6 mesi di studio di tutta quella che era la sua attività, è stata licenziata per demerito, incapacità didattica. Il preside dice, era il preside ospite di Oscar Giannino, vedete che si può fare se si vuole. Vabbè, qui siamo al premio Mani sul Volante, eccolo qui, è l'apertura del giornale, ne scrive Libero, ne scrive anche Il Giorno, il premio Mani sul Volante, tenetelo ben strette queste mani sul volante se siete alla guida, per evitare sbandate come al solito, pasticcini con la crema da appoggiare, brioche con la crema, cappuccini, tazzine del caffè. Il ricorso al TAR contro la benedizione pasquale. Ma qui non si tratta di scuola laica o scuola non laica, qui si tratta di fanatismo. 11 insegnanti che hanno fatto ricorso a Bologna al TAR, un ricorso al TAR per impedire la benedizione pasquale. Il consiglio d'istituto aveva approvato il rito, ma 11 professori su 100 e 7 genitori su 1000! folle si sono posti e fanno ricorso al TAR. Nel giorno in cui leggete i giornali, La Stampa, a New York, il sindaco De Blasio ha stabilito che l'anno prossimo le scuole rimarranno chiuse nei giorni di Ramadan, per rispetto della religione islamica. Eppure l'America non è islamica, no? Ma voglio dire, si può discutere, però una questione di rispetto, di tolleranza, di accettazione anche dell'altro, di dialogo. 7 genitori su 1.011 professori su 100 non vogliono la benedizione pasquale, che poi è buttare un po' dell'acqua santa sui banchi di scuola. Ah, che diamine! No, non si può fare. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, le mani sul volante dell'informazione. È certo. Saluto Remo, che vuole essere chiamato da oggi geometro, e va benissimo, caro Remo. Chi mi chiede medico e medica, non lo so, comunque, ecco, insomma, la Boldrini ci ha cacciato in un gran casino. questa è la verità. Guardia giurata o guardio giurato, ci chiede un ascoltatore, non lo so. Guardia giurato, guardio giurata, è un bel problema, lo affronteremo con ampi dibattiti. Bisogna però partire oggi non tanto dai quotidiani, ma dall'Espresso, se vogliamo parlare di politica, perché l'Espresso, con Marco da Milano, ha un'intervista al presidente del Consiglio Matteo Renzi, parla un po' a tutto campo. Intanto respinge le critiche di chi lo accusa di fare tutto lui. La domanda di Marco da Milano è questo: lei tratta i suoi ministri come assessori? Il ministro dell'istruzione Giannini non sapeva del decreto scuola, il ministro Padoan non sapeva del decreto fiscale, Gentiloni e Pinotti sono stati smentiti sui soldati in Libia, insomma comanda lei. Non è vero, risponde Renzi, sul ministro Pinotti c'è stato un chiarimento, il ministro all'economia sapeva tutto del tetto al 3%, mentre non esiste che un ministro faccia un decreto e poi ce lo comunichi. Sulla scuola ci siamo impegnati col Presidente della Repubblica e con le opposizioni a presentare meno decreti possibili. Beh, questa è una bella tirata d'orecchie per il ministro Giannini. Mettiamoci d'accordo, dice Renzi, prima mi accusano di essere un dittatore che vuol far tutto da solo e se presento un disegno di legge mi accusano di non decidere. Faccio le riunioni? Troppo poco. Non faccio le riunioni? Decido da solo. Mi sembra il modello Cara ti amo di Elio e le storie tese. Se resto in casa mi opprimi, se esco dici che questa casa non è un albergo. Ecco, questa è la metafora, l'immagine che usa Renzi, prendendo spunto la canzone di Elio e le storie tese. Poi guarda la politica. Senta, ma fuori dal PD c'è un'alternativa a Renzi, chiede l'Espresso. Ma a sinistra c'è già, risponde Renzi. Vedo che ci pensa Landini. Non capirei certe contestazioni che ho ricevuto in alcune fabbriche da parte della FIOM se non in base a un disegno politico. Oppure Laura Boldrini. Non mi spiego certe posizioni che ha preso negli ultimi giorni, uscendo anche dal suo perimetro di intervento istituzionale, con valutazioni di merito se fare o no un decreto che non spettano al presidente di un ramo del Parlamento. Eccola qui, quindi, le accuse, poi parla di altro, ovviamente difende anche la sua scelta dell'elicottero di Stato. L'ho preso e continuerò a prenderlo tutte le volte che sarà necessario, e chiude qui questa polemica tutta italiana. Insomma, accusa Laura Boldrini, che ieri proprio era impegnata in questo convegno, ma quando esce dal convegno sulla parità di genere, eccetera, anche se malvolentieri, rilascia, scrive La Stampa, rilascia un'intervista alla Stampa. Francesco Grignetti, pagina 9, va a intervistare, eccolo qui nel titolo, la Presidente della Camera. Quindi vedete che già nel titolo è sdoganato il volere della Presidente Boldrini. Difendere l'aula è il mio dovere. Malvolentieri parla e risponde a Matteo Renzi: guardi, ritenere opportuno che vengano tenuti in considerazione i pareri di commissioni, così come che si limiti all'essenziale la decretazione d'urgenza, non significa affatto uscire dal mio perimetro istituzionale. Al contrario, difendere le prerogative del Parlamento è il primo dovere di un presidente della Camera. In ogni caso, non intendo alimentare ulteriori polemiche. Poi, ovviamente, Laura Boldrini parla del tema di cui voleva che si parlasse ieri, non di queste polemiche quisquiglie politiche, ma del tema vero, quella della battaglia di genere. Eccola qui, il sessismo, dice Laura Boldrini, in questo paese c'è e si fa sentire anche nel linguaggio, e non è cosa da poco. Il linguaggio cambia come cambia la società. Ho inviato una lettera ai deputati e poi una lettera alla segretaria generale della Camera affinché nei resoconti si rispetti il genere. Non sono quisquilie semantiche, al contrario è un problema di fondo. Dietro la lingua c'è il riconoscimento della persona. Declinare le professioni e le mansioni, i ruoli al femminile, significa accettare che anche una donna possa svolgere quell'attività. Ecco, vedete, declinare al femminile. Quindi geometro, se siete maschi, giornalista, io sono un giornalista, Peter Bescapè è giusto perché è un tecnico, però un regista, è un fonico, vabbè, quindi bisognerà rivedere un po' di cose. Comunque staremo a vedere che succede. Staremo a vedere anche che succede all'interno della Lega. Alle 8.15 saranno i nostri microfoni Flavio Tosi. Ieri c'è stata la segreteria della Lega Veneta. C'è questa frattura? Sì, no, boh, forse. E i giornali raccontano la frattura profonda, la sfida di Tosi a Salvini, rimangiati la porcata. Questo è il titolo di pagina 17 del Corriere della Sera. Ieri si sono visti Salvini e Tosi, hanno pranzato insieme. Per la verità, Repubblica fa sapere con Rodolfo Sala che non sono d'accordo neanche sul menù. Sapete che i giornali poi vanno a sfrucugliare anche queste cose, perché Salvini prende la frittura di pesce col calice di Traminer e Tosi un filetto ai carciofi annaffiato con del rosso schioppettino. E vabbè, quindi manco sul menù. Sono d'accordo, vabbè, ma queste sono minchiate. Però il concetto politico è capire davvero se Tosi esca o no dalla Lega. E questo glielo chiederemo alle 8.15. Non è, credo, ancora tutto deciso, però ci proveremo. Intanto, chi non si candiderà a Milano, queste sono le voci sempre più insistenti, è Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano. Pisapia, secondo il Corriere della Sera, l'articolo di Maurizio Giannattasio a pagina 17, è un retroscena. Continua a dire: ho le idee molto chiare sul mio futuro, ma lo dirò al momento opportuno. È la litania del sindaco Pisapia, che però, secondo voci sempre più insistenti, avrebbe già detto al vice segretario del PD Lorenzo Guerini: io non mi ricandido. Pisapia annuncerà quando lo riterrà opportuno questa decisione, ma è abbastanza certo, secondo il Corriere, ormai certo, che Pisapia non si ricandiderà a sindaco di Milano. Secondo il giornale invece, Renzi, prendendo spunto da questa intervista dell'Espresso, punta proprio a un rimpasto di governo. Queste critiche, neanche poi tanto velate, soprattutto alla Giannini, ministro Giannini, ma anche a Lupi e a Pinotti, metterebbero queste tre persone proprio sulla graticola. Eccolo qui, Andrea Cuomo, pagina 3 del giornale. Renzi tentato dalla sostituzione di Lupi, Giannini e Pinotti. Per la verità è una vicenda che torna periodicamente, ma poi non se ne fa nulla. Le telefonate sono tornate, le telefonate paginate, le telefonate di Berlusconi, mamma mia, ma sì, guardate, le liquido, tanto sono tutte robe, le avete già sentite, ho il colpo della strega, e Tarantini gli dice: ti mando un angioletto che ti passa il colpo della strega, io ho due bambine, di qui. La telefonata migliore però è questa, tale Francesca, non so il cognome, parla con Tarantini, deve essere una delle ragazze che va da Berlusconi, e dice a un certo punto: io gli ho detto questa frase che colpisce sempre gli uomini, gli ho detto: se tutti gli uomini del mondo tendessero a me la mano, è la tua quella che prenderei, Silvio. E Giampaolo Tarantini gli fa: cioè? Che vuol dire? Non ho capito. Ecco, questo per dire il tenore, perché Giampaolo Tarantini, come ho detto prima, capisce linguaggi un po' più terra-terra, evidentemente. E questa Francesca gli spiega: nel senso, quello che ho detto, se tendesse la mano, io è la sua, tra tutte le mani tese, quel... E Giampaolo Tarantini ancora: cioè, sai che non capisco. E vabbè, e allora chiudiamo baracca e burattini e andiamo dal nostro collega giornalista Mauro Meazza, caro giornalista, perché ci sono le questioni di genere adesso, declinare le professioni maschile e femminile, caro Mauro, buongiorno. Buongiorno, posso dire, devo dire anche buono giornato, no, quello non è necessario. No, va bene, quello no. Ti piace no. Giornalista? Sì, ma se ce lo chiedono ci adegueremo, che dobbiamo fare? Ah, mi viene in mente l'albero cui tendevi la pargoletta a mano per la poesia che si facevano studiare una volta. Sì, sì. Una volta. Senti, è un lunedì, allora è un giorno, finalmente dillo tu, dai. È decisivo. No, però questa volta sul serio. No, stavolta sì, 60 miliardi al mese in arrivo. Scusa se è poco, insomma, verrebbe da dire. Ti spieghiamo non solo tutta la vicenda del quantitative easing, che però oramai vedo che nonostante il termine inglese è diventato di uso corrente, non solo ti spieghiamo il quantitative easing, ma soprattutto oggi sul Sole 24 Ore anche una bussola per capire ma che ne facciamo allora dei nostri titoli di Stato, compriamo o non compriamo, e poi sapere finalmente come smuovere i tuoi 2 euro da quell'inerzia in cui li costringi. Se per caso poi tu non li avessi, non, diciamo, non ti fossero caduti in Svizzera, ma che so, in Liechtenstein, ovvero a Monaco, ecco, allora ti invito a leggere norme e tributi, perché c'è un interessante specchietto, beh, diciamo un robusto specchietto, che ti spiega gli effetti delle varie intese con vogliamo questi tre paesi. Farlo vedere? Vogliamo mostrarlo? Se puoi mostrarlo, ti fai una cortesia. È difficile, non possiamo leggerlo tutto, non c'è tempo, però lo trovate in norme e tributi. Vabbè, ecco. Volevo poi dirti, non lo diciamo tutte le mattine, ma noi continuiamo a seguire questa trattativa dei bancari che continua a segnare il passo, lo dico con un certo dispiacere, ne parliamo anche oggi, c'è stata una proposta da parte dei bancari, ma dei banchieri, per meglio dire, dell'ABI, e però le posizioni restano distanti. Tutto questo in imprese e territori, dove, caro Alessandro, puoi trovare anche la notizia da non sottovalutare che c'è in giro più parmigiano falso che parmigiano vero. E questo per noi è abbastanza una disdetta. Non solo, per il palato, ecco. No, infatti anche per l'economia. Poi dell'IVA sugli ebook penso che avrei visto anche su altri giornali, naturalmente sul Sole 24 Ore ti spieghiamo perché non si può, secondo la giustizia europea, abbassare l'aliquota IVA sugli ebook. L'IVA è un po', sai, come il mille proroghe, mistero senza fine, bello, però te lo spieghiamo tutto lì. E poi guarda che oggi potrebbe già essere un giorno, come dici tu, diciamo importante. Perché oggi vanno in Gazzetta Ufficiale, almeno così ci aspettiamo, i decreti sul Jobs Act. Altro non ti vo' dir. Ma leggi il Sole 24 Ore tutti i giorni. Farollo. Buona domenica. Auguri a te. Tanti auguri. Lo sapevo che arrivavamo a questa manfrina finale. Finiamola qua, dai. Traffico. Alessandro Milani, il Pharrell Williams dell'informazione. Sì, è venerdì peraltro, non l'ho detta questa, è venerdì, cari amici, per chi non lavora il weekend è una buona cosa. Saluto il camionista che mi ha scritto, grazie con tanto affetto, bellissimo lavoro il camionista, se sei un uomo camionista, se sei donna ovviamente. E poi vabbè, dicevamo, continuano le intercettazioni, certo che Berlusconi che dice la Manuela Arcuri ha 29 anni, ormai è una vecchietta, 29 anni ormai è una vecchietta, vabbè, ma un'altra straordinaria intercettazione quando parla con Tarantini della formazione del Milan, metto in campo una formazione con Maldini in centro e Beckham chiede Tarantini, metto due vecchietti ma metto Beckham, Pirlo, Seedorf, Kakà, Ronaldinho, cioè capito, metto, è lui l'allenatore del Milan, metto, non l'allenatore, metto. Vabbè, questo spunto calcistico mi permette di saltare al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, attenzione, oggi pubblica degli stralci dell'anticipazione di un libro dal titolo Il Re di Roma. Lirio Abate dell'Espresso e Marco Lillo hanno scritto questo libro e raccontano di Francesco Totti e del fratello di Totti e delle società del fratello di Totti. Pagina 2 del Fatto: gli affari milionari di Totti grazie a Odeven e agli 007. Luca Odeven è colui che era anche il collaboratore di Veltroni, che poi adesso è finito in carcere per la vicenda di Salvatore Buzzi, le cooperative, quella che è stata definita la mafia a Roma. Ecco cosa succede, ci sono nelle liste consegnate dal PM Tescaroli ai ROS per le concordate verifiche, c'è che cosa? Il residence della Immobiliare Ten, la catena societaria a monte del palazzo di Via Tovaglieri, zona Tor Tre Teste, composta da tre società che fanno tutte riferimento al numero impresso sulla maglia del capitano. L'Immobiliare Ten, no? Sapete, il 10, Totti. L'Immobiliare Ten, proprietario dell'immobile affittato al comune. Poi c'è l'Immobiliare 10, che possiede altri due palazzetti in via Rasella, due passi da via Veneto. E più su ancora c'è la holding di famiglia, la Number 10 SRL, 83% di proprietà di Francesco Totti. Ebbene, queste società hanno affittato vari palazzi, affittano vari palazzi al comune di Roma, guadagnando milioni, e vabbè, fin qui niente di male. Secondo il Fatto Quotidiano, secondo questo libro edito da Chiare Lettere, anticipato oggi dal Fatto, il punto è che il grande affare di Francesco Totti con il Campidoglio è stato fatto, come accaduto per il gruppo Pulcini e come accaduto per Salvatore Buzzi, grazie a un signore che oggi è in galera, Luca Odeven. Scrive però il Fatto: nessuno è indagato per queste storie, semmai si può vedere lo eventuale sperpero di denaro pubblico. Insomma, Francesco Totti, che finisce sulle prime pagine del Fatto Quotidiano, non certo per vicende sportive, ma per le sue società. Gli affari milionari di Totti grazie a Odeven e agli 007, perché affitta anche una palazzina al Sismi. Leggetelo se volete. C'è molto anche di attualità internazionale, ovviamente. Il premier era in Russia, si tratta anche sulla Libia. Vi segnalo solo la pagina di Giuseppe Sarcina, pagina 5 del Corriere: gli inviati, le sale separate, le fazioni libiche che provano a Rabat un tentativo di compromesso tra il governo riconosciuto internazionalmente di Tobruk e quello invece tutte le varie fazioni a Tripoli e nelle altre città. Ma la riunione a Rabat è partita malissimo, 3 ore di capannelli per decidere se sedersi allo stesso tavolo, e poi gli inviati del governo di Tobruk che dicono: non ci sediamo con gli altri, non possiamo legittimarli. Questo sul Corriere. Insomma, la Libia rimane un paese devastato e allo sfascio. La devastazione, beh, tramite le foto, i racconti, soprattutto in Toscana, per il vento terribile, le tempeste di vento, la si può vedere in fotografie. Sono caduti i cipressi del Carduccia Bolgheri, sono state devastate case, soprattutto nella Versiliana, alberi che sono abbattuti sui tetti. Anche Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, dice: mi hanno è stato distrutto praticamente tutto il mio parco. Pensate che a Forte dei Marmi il sindaco dice il 60% degli alberi sono stati sradicati. È un danno all'ecosistema terribile. Pensate quanti anni ci vogliono perché un albero cresca, a volte 30, 40, 50, se non 100 anni. Spazzati via, il 60% degli alberi di Forte dei Marmi sono stati sradicati in una sola giornata o in qualche ora. Terribile. E le cronache le trovate ovunque, ovunque. Continua la questione del tema dell'accattonaggio. La proposta, Il Giorno batte molto su questo tema: l'accattonaggio molesto, è pronto il piano di Alfano, il giro di vite. L'incontro con i vertici dei comuni da parte del ministro dell'interno. C'è anche l'intervista al primo cittadino di Varese, Attilio Fontana, che dice: noi vogliamo confiscare le elemosine di chi chiede la carità. Confiscare le elemosine. Beh, un tema molto interessante. Come avevamo anticipato, New York chiuderà le scuole dall'anno prossimo, decisione del sindaco Bill de Blasio. Perché? Per un fatto di eguaglianza, per il Ramadan. Ci sono almeno 1 milione di abitanti a New York che praticano l'Islam e mandano i figli a scuola, e il sindaco di New York ha deciso l'anno prossimo, per il Ramadan, le scuole saranno chiuse per rispetto dell'Islam. È una decisione non indifferente. Ma rimango sulla stampa, perché qui c'è la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, mezza pagina, di Vittorio Sabadin sul principe Carlo alla guerra. Perché non gli fanno vedere i nipoti? Li tengono sempre i genitori di Kate, che decidono cosa deve mangiare, quando deve dormire, quando deve svegliarsi. Il principe Carlo, quasi re Carlo, è molto indispettito. Non mi fanno vedere i nipoti. Ma chi se ne frega!